Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Certamente bisogna escludere il Ferragosto perché è sacrosanto per tutti gli italiani, quindi il riferimento è molto semplice. Troveremo la possibilità di trattare con le società di Serie A che sono già impegnati nei loro tour estivi e di trovare una soluzione di interesse generale. Noi dobbiamo pensare che la partita con la Spagna è la partita determinante per la qualificazione e qualcuno un po' di sacrifici deve fare. Sento il mare dentro una conchiglia. Allora, io saluto subito, oltre a Giorgio Ruga, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Edoardo Lavezzani in redazione, Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ecco. Benissimo, e Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Ciao Federico. Ciao. Allora, ciao. Tema del giorno che la rilancio anche agli ascoltatori, ma vi piacerebbe un campionato che inizia nel weekend 12-13 agosto per lasciare spazio alla nazionale, alle TV? Piacerebbe da direttore e da telecronista? Federico? Guarda, mi basta prima perché telecronista non sono in grado, ma comunque, guarda, dico, secondo me il problema è semplice. In questo caso le televisioni hanno esattamente, come nella maggior parte dei casi peraltro, lo stesso interesse del tifoso, cioè di chi va allo stadio, e delle società e direi anche dell'organizzatore dell'evento, ovvero della Lega. L'interesse è quello che lo spettacolo possa essere goduto dal maggior numero di persone possibili. Sicuramente lasciamo perdere l'aspetto televisivo che è quasi secondario in questo caso. Sicuramente un campionato a 12-13 di agosto avrebbe spalti vuoti, perlomeno nelle grandi città. E credo che dopo avere passato uno, due o tre anni, gli ultimi, a parlare di come riportare la gente allo stadio, di stadi, di pubblico, di calore, calore ne avremmo, ma quello delle temperature, non certo quello dei tifosi sugli spalti. Dico dunque che mi pare sinceramente una soluzione difficile. Poi dopo, se ci si mette d'accordo, è quel bene di tutti, per carità. Ribadisco, in questo caso la TV fa da spettatore, così come in tutte le decisioni vengono prese. Spettatore pagante, attenzione. Quasi sempre, perché questo è un vecchio, secondo me, pregiudizio, è un vecchio equivoco che esiste. E ogni tanto ci torniamo su questo argomento. Sembra che le televisioni portino degli interessi che sono degli interessi esogeni, lontani da quella che è la massa degli spettatori e degli appassionati di calcio. Non è così. Cioè, io per esempio sono, sapete, un fan dello spezzatino, perché credo che lo spezzatino comunque consenta alle persone di vedere tante partite. Siccome a me per primo piace vedere tante partite, io penso che non sia uno scandalo che ci sia una suddivisione. Poi gli altri paesi ci hanno anche superato da questo punto di vista, la Spagna su tutti. E questo, oppure il famoso discorso di Natale, che secondo me è una frontiera da esplorare in grandissima serenità, perché a Natale la gente ha voglia di a tempo libero per stare con le famiglie, e credo, insomma, Federico ce lo potrà confermare, che da parte delle televisioni non c'è nessuna pregiudiziale da questo punto di vista. Ma ci mancherebbe. Quindi insomma, su agosto c'è una vera e propria collisione di interessi, e qui da un lato c'è un conflitto totale, perché da un lato quello che dice Federico è stragiusto, stracondivisibile, dall'altro c'è un'esigenza che è specifica della nazionale, e bisognerà trovare un punto d'equilibrio. È ovvio che nessuna persona con del senno vorrebbe cominciare il campionato il 13 agosto in un paese come il nostro, che è un paese mediterraneo, dove ci sono 40 gradi a Milano e 40 gradi a Palermo. Ovviamente, si giocherebbe di sera, e altrimenti il campionato comunque comincerebbe una settimana dopo, più o meno. In Francia si comincia il 4 e il 5, in Inghilterra il 12 e il 13, in Germania il 19, in Spagna devono ancora decidere. Ci sono soprattutto altre vacanze, Io mi sono sempre chiesto. Sì, ma infatti è un problema, è un problema quasi sociologico, ragazzi. No, ma noi abbiamo questo modello di agosto. Bravo, che sicuramente esatto. Negli anni è un po' cambiato perché un po' anche forse la crisi economica è difficile, la gente possa farsi un mese di vacanza come quando ero bambino, che agosto era proprio, le città si svuotavano, oggi è molto diverso. Però comunque l'impostazione rimane quella, si va in vacanza in agosto in Italia. Giusto o sbagliato che sia, premesso che a luglio il tempo è migliore. Poi parlate con uno che è stato a Abu Dhabi 4 giorni e 2 giorni ha piovuto, quindi diciamo dal punto di vista meteorologico sono abbastanza alla legge di Murphy. Però a parte queste no, ma sai, ma Piero, è quasi un problema sociologico, no? La vacanza d'agosto. Negli anni 70, 60, 70 le grandi fabbriche del nord chiudevano ad agosto e dunque siamo tutti abituati fin da bambini ad andare in vacanza d'agosto. In tutti gli altri paesi europei le vacanze si spalmano tra maggio, settembre, ottobre e così via. Quindi è quasi un problema sociologico. In questo caso diventa un problema calcistico. Io credo che per le televisioni non ci sia una gran, faccio un po' l'avvocato del diavolo, non ci sia una grande differenza tra l'iniziare il 12-13 e l'iniziare una settimana dopo, perché comunque la gente, essendo in vacanza, si organizza. Per quanto riguarda gli stadi, Federico, non è che negli ultimi anni abbiamo visto spalti gremiti in ogni ordine della capienza, come dicevano una volta? Però questo sarebbe uno dei motivi per cercare di continuare, come si sta facendo in parte già in questa stagione, a invertire la rotta. Cioè aggiungere una giornata con spalti semivuoti non credo che sia un'idea, diciamo, intelligentissima. Hai citato prima l'esempio della Spagna, vediamo, non è ancora stato deciso, è presumibile che sia il 20, no? come sì. Sarebbe stato in Italia e come dovrebbe essere in Italia se non passa questa proposta. Beh, mi sembra che perlomeno si giocherebbe ad armi pari. Penso ci possono anche essere altre soluzioni, no? Sì. Si è parlato anche di uno stage 5 giorni della nazionale nella settimana precedente, appunto quella del 13 d'agosto. Sì. Per carità, tutto è fattibile. Io credo che stiamo un po' esagerando da questo punto di vista. Io credo che poi, ribadisco, le televisioni accetterebbero tranquillamente di mandare in onda le partite quando la Lega deciderà di farle giocare. Sì. Credo che ritrovarsi oggi a discutere di un problema che pareva essere stato superato sia del tutto fuori tempo, perché la maggior parte delle società, e anche questo va rispettato, ha organizzato il proprio programma estivo, ha fatto contratti, sì, e queste sono cose che si devono decidere con 12 mesi di anticipo. Di solito tra gennaio e febbraio vengono firmati i contratti dei club che andranno a giocare le amichevoli internazionali. Questo vale anche per la Spagna. Real e Barça sono ovviamente tra le più appetite. Ma certamente, quindi voglio dire, siamo di nuovo del tutto fuori tempo, come se ogni volta che giocasse la nazionale si torna a affrontare questo problema. Questo problema andava affrontato ed è stato affrontato e respinto qualche mese fa. Tornarci adesso, non lo so, ribadisco, poi chi non vuole bene la nazionale? A proposito di televisioni, no? Cioè, un mondiale con l'Italia sarà diverso da un mondiale senza l'Italia, per qualsiasi televisore lo mandi in onda. Sarebbe un disastro categorico mondiale, no. Un cataclisma per noi. E c'è anche un altro aspetto che mi veniva in mente, e credo che Federico lo potrà confermare. Per quella che è la struttura ad oggi dei diritti televisivi del calcio italiano, che sono legati a delle pay TV, non ci sono partite in chiaro. Certo. Il problema per le televisioni è veramente minimo, nel senso che non è che la gente non si abbona se una o due giornate vengono giocate in agosto. Sono lievemente più bassi gli ascolti di quelle prime due giornate. Sì. È un problema forse solo pubblicitario, sì. Forse solo di ascolti per una giornata, ma ribadisco, non è che la seconda cambi molto. Il calcio d'agosto funziona fino a un certo punto sulle pay TV, ma poi si può recuperare dopo. Non è veramente, io credo che il discorso delle televisioni in questo caso sia marginale rispetto a quello dei club, insomma. Grazie Federico, buon lavoro. Degli spettatori, non soltanto ciao. Da telespettatori. Devo salutare quello, Federico, ciao Federico, Ferri, quello degli spettatori. Dimmi Piero. Che è il vero tema, quello degli spettatori, cioè il 13 agosto probabilmente la gente ha voglia di starsene al mare, insomma, non di andare a... non lo so, poi magari invece avremo stati pieni, non lo so, sono aperto a questo punto. Propongo di giocare tutte le partite in città di mare, così per esempio a Marassi qualunque partita ci sarà, c'era il Pinone, no? Arrivano da tutta la Riviera Ligure. Io credo che ci devono essere almeno 10-15 città di mare in Serie A. Allora giochiamo a Cagliari. Giochiamo a Cagliari, a Palermo, a Napoli, a Genova. Anche il Crotone a questo punto è salvo d'ufficio. Crotone salvo d'ufficio, anche Pescara. Il Catania lo viene ripescato. Napoli. Perché poi tra l'altro Genova, c'è un'altra bizzarria in tutto questo. Lecce. Per carità. Il Bari? Bari e Lecce. Tutti e due. Dove vuoi andare? Lecce. Senti come ride Simona. Sì. Ma la Torres, Sassari, non vogliamo fare qualcosa del nord della Sardegna? Il nord della Sardegna è obbligatorio. No, tra l'altro c'è un'altra bizzarria che affronteremo dopo, anche con gli ascoltatori se vorranno, 800240024. C'è Tavecchio che ha dato alla Lega Calcio il tempo fino a tempo massimo 18 di aprile per decidere il nuovo capo. Closing del Milan 14, Lega Calcio 18, insomma si vuole andare di corsa per risolvere problemi che durano da anni. Altrimenti cosa fa? Fa il commissario della Lega Calcio e quindi una mattina si sveglia mentre si fa la barba e dice: allora Carlo, giochiamo il 12-13 agosto oppure no? Traffico. Tutti convocati. Convocati. Donnarumma è semplicemente, credo, lo stesso identico discorso a grandi linee di Buffon di quando ha iniziato, cioè sono giocatori che credo, senza voler enfatizzare, ma credo siano dei predestinati. Pallone buono per Higuain, lo mette giù, prova a liberare il tiro, ancora Donnarumma, altro grande riflesso. Passo per il tiro, buono il pallone in verticale, c'è Mali, palla arretrata per Krejci, Donnarumma! Parata! Il mancino di Paulo Dybala, la parata di Donnarumma! Ovviamente vogliamo parlare di Donnarumma, io Pardo e un grande Cristian Abbiati che siamo riusciti a convocare. Ciao Cri. Ciao, salve. Ciao. A tutti. Intanto io stavo ridendo come un matto. Come va Cristian? Bene, tutto bene, grazie. No, io stavo ridendo come un matto perché stavamo parlando io e Pardo prima del traffico del campionato con Federico Ferri, del campionato il 12 e il 13, e io e Pardo stavamo facendo le proposte. Giochiamo soltanto nelle città di mare. Io sto leggendo i WhatsApp. Roma con Ostia da considerarsi al mare. Sì, Roma con Ostia da considerarsi al mare. Va bene. Ragazzi, portiamo il mare a San Siro. Oppure Udine che ha 40 km da Lignano Sabbiadoro e Grado, il pienone di tedeschi e stranieri è assicurato. Oppure assicurato. A San Siro il 12 agosto non ci va nessuno, nemmeno se fate giocare moglie e fidanzate di Milan e Inter nude. Questo mi sembra più interessante. Esatto. Ed è la prima domanda seria che faccio ad Abbiati. In quel caso io una certa affluenza la prevedo, la prevedi? Secondo me comunque un po' di rientro potrebbe essere. Tu Cri, cosa però dici? Spalti vuoti, Pardo. No, ovviamente abbiamo chiamato. Quanto è forte Donnarumma? Che detta così è una domanda molto banale. Cioè, in che dimensione siamo? Siamo nella dimensione di Buffon, tanto per non girarci attorno, cioè nella dimensione di uno che può diventare veramente uno dei portieri icona della storia del calcio mondiale di sempre? Oppure andiamoci calmi. Ma sicuramente andiamoci calmi, ma io il mio parere, quello che ho sempre espresso è che sì, ha tutto quanto, ma veramente per diventare il dopo Buffon, sicuramente, in numeri, in tutto quanto. Senti, perché ha 18 anni, può migliorare ancora tantissimo, ha il carattere giusto per fare il portiere, calmo, ricordiamoci che a 16 anni la pressione di San Siro non è facile, poi in un momento in cui la squadra non era delle migliori. Sì, mi sembra che tu abbia vinto lo scudetto a 21, se non ricordo male, o mi sbaglio. Sì, a 21, esatto. Quando avevo i capelli, ero giovane. Sì, e io anch'io ero giovane e avevo memoria, questa l'ho beccata per puro culo, che ho vinto lo scudetto a 21 a Perugia, se non mi sbaglio, con Zaccheroni allenatore. Sì, sì. Esatto. E ti sei arrampicato 99, certo. E ti sei arrampicato sulla transenna massacrandoti le mani col filo spinato. Sì, sì, di tutto. Mamma mia, sono un pozzo di conoscenza, ragazzi. Veramente. Posso giocare a Trivial. Senti, c'è qualcosa di migliorabile? Cioè, se tu dovessi allenarlo, dov'è che ancora, oltre che credo dal punto di vista della tenuta psicologica, che per i portieri sappiamo che è importante, mi viene in mente Scuffet, insomma è facile per un portiere partire fortissimo e poi avere anche dei cali, perché è il ruolo dove più di ogni altro un errore lo paghi sempre, o una prodezza invece ti viene sempre in qualche modo giustamente sottolineata. Dove può ancora migliorare? Ma ripeto, è veramente giovane, quindi è uno che non si accontenta, che gli piace il suo lavoro, che ha passione. Quindi secondo me può migliorare in tutto, sicuro. Magari può migliorare ancora di più con i piedi, ma già da quando l'ho conosciuto io oggi è migliorato tantissimo. E comunque adesso il ruolo del portiere è totalmente cambiato da quando ho iniziato io. Cristian, tu hai giocato, non so se Pardo ha commentato quella partita, il tuo addio al calcio nel maggio dell'anno scorso, era un Milan-Roma. Sì, esatto. Poi sei andato... No? No, cosa? No. Non l'hai vista? Non l'ho commentata, ma l'hai vista. No, dopo la partita. No, dopo quella partita abbiate andato sotto la curva del Milan a ricevere i giusti mazzi di fiori vocali e ha chiamato a sé Donnarumma, lo ha indicato con il dito, gli ha preso la mano e lo ha alzato. Lo ha in qualche modo battezzato, incoronato in quella maniera. Allora, io di quel gesto lì alcuni mi hanno detto no, ma ci avevi pensato prima. Io l'ho messo a fuoco dopo, quando l'ho rivisto la televisione. Ah sì? È stato veramente un gesto istintivo, perché gli voglio bene, l'ho visto crescere, e mi è venuto più istintivo. Poi tra l'altro la coincidenza era lì vicino a me, mi è venuto proprio spontaneo fare quel gesto. E penso che sia stato un bel gesto e lui mi ha ringraziato per questo. Sì, sì, lo è stato senz'altro, Pardo. Senti, c'è qualcosa che ti sorprende ancora di Buffon, visto che insomma dobbiamo celebrare queste due scale di portieri, una ovviamente all'inizio, l'altra non è ancora alla fine, fortunatamente è arrivata a quota 1000. La passione, quella è tutta passione, perché lui ha un anno in meno di me, ne ha 39, è tutta passione sicuramente. È vero anche che giocare in una squadra dove si vince al momento ti aiuta a avere entusiasmo, a avere voglia di andare al campo. Io ho smesso perché era un anno difficile, questo dicerie del cambio di società, io ho preferito smettere perché mi pesava un pochino, tra virgolette, andare a Milanello. Invece lui vedo che ha voglia e questo mi fa molto piacere. È quello che fa la differenza in tutto, sempre per un professionista, esatto, di qualunque sport, cioè quando comincia a diventare pesante, faticoso, pericoloso, non andare a fare le partite ma andarti ad allenare, allora io credo che quello sia il vero segnale, la vera spia rossa che ti induce a esatto. Smettere. Non è facile ammetterlo, dire no, non è facile, però bisogna essere consapevoli di tutto quanto e prendere in mano la situazione. Poi io ho smesso anche perché ho sempre detto che sarò io a decidere quando smettere e non gli altri, quindi non ho approfittato. No, ma guarda, so che tu sei molto appassionato di basket, chiedi a Meneghin, ti dice la stessa cosa, ti dice esattamente la stessa cosa. Ma poi quello che ci dice Cristian è un'ennesima conferma di una grande verità, no? Perché tante volte ci può essere l'idea che il calciatore, siccome fa una bella vita, siccome guadagna un sacco di soldi, che il grande sportivo professionista sia una specie di macchina, al punto che qualcuno, chiaramente sono forme patologiche, arriva a pensare che che non te ne possa fregare, no? E quindi le varie contestazioni quando le squadre vanno molto male, di fondo c'è il pensiero di una parte della tifoseria che non ti sta impegnando abbastanza o che non te ne frega niente, cosa che per quella che è la mia esperienza è assurda, no? in realtà, anche se, se un calciatore guadagna tantissimi soldi, anche se è un campione assoluto, però questo elemento della motivazione è decisivo. Cioè sono, per quella che è la mia esperienza, veramente persone speciali, soprattutto da questo punto di vista, non soltanto per quello che gli ha dato madre natura, ma soprattutto perché comunque hanno una voglia che secondo me persone che fanno altri lavori mediamente non hanno. Sì, sì, così. Guarda, io vi posso dire, cioè io avevo un altro anno di contratto e ho preferito prendere la mia strada, e secondo me è stata la soluzione migliore per, sia per me che per il Milan, perché comunque diciamo che questo spazio, a parte Donnarumma che questo spazio se l'è preso da solo, ma anche all'altro ragazzo di 16 anni che c'è, che fa attualmente il terzo portiere. Sì, sì, sì. Sì. Non mi ricordo, mi sfugge il nome adesso. Sfugge anche a me, vabbè. Ma vi posso dire che a me, io a settembre ho fatto la prima partita delle vecchie gore con il Milan e contro l'Arsenal, e mi ha fatto un piacere enorme vedere l'agonismo che hanno i grandi campioni che hanno giocato nel Milan o nell'Arsenal tanti anni fa. Cioè, c'è ancora quella voglia di vittoria sana, e mi ha fatto molto piacere, è stata un'esperienza bellissima. Quello non si perde mai, io credo. No, si chiama Plizzari, il terzo portiere del Milan. Plizzari, che anche lui è molto bravo. Anche lui è molto bravo in rampa di lancio nel caso in cui Donnarumma dovesse decidere di andare da un'altra parte. Questo lo scopriremo vivendo, io credo, e anche abbastanza presto lo scopriremo vivendo. Direi che l'Italia, Cristian, per finire, l'Italia è la nazionale è coperta fino al prossimo secolo dal punto di vista dei portieri, perché dietro Donnarumma c'è Meret che di anni ne ha 20, c'è Plizzari che mi dice mio amico Filippo Galli essere fortissimo, e dunque siamo coperti, io credo, secula seculorum, no? Sì, guarda, mi fa piacere questo, perché vuol dire che la scuola funziona. Si conferma ancora una volta che la scuola dei portieri italiani è un'ottima scuola. Grazie Cristian. Grazie a voi. Ciao, a presto. Ciao Cristian Abbiati. Allora, Francesco da Roma, Paolo dalla provincia di Napoli, abbiamo già eletto Pardo Roma e Napoli come città di mare in cui comunque vada. Napoli. C'era particolarmente bisogno. Se c'è una partita di cui non so De Luca che ne pensa. Ti candidi per la telecronaca di Napoli, XY, chiunque c'era sia. Insomma, che sono benissimo noi che Napoli è una città di mare, anche se c'è pure la montagna. C'è pure la montagna. Che è il bombero, quindi 12-13 Napoli a Roma, sì, a Napoli a Roma si gioca per d'ufficio, dovesse esserci il campionato. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Devo dire la verità, ve la siete cantata e suonata da soli. Cantata e suonata, sì. Posso? Sulla faccenda dell'anticipo del campionato. Perché si è intervenuto un responsabile di una TV commerciale, sì. Pardo, che ha saluto affettuosamente, che comunque ha i suoi interessi lì, e lei. Voci contrarie non le ho sentite, bisogna capire contrarie in che senso? Ma guardi, che io posso dire una cosa, se io sono ad esempio io sono favorevole ai 12-13, tanto per essere chiari, al di là del fatto che i nostri stipendi, nemmeno quello di Federico Ferri che fa il direttore, credo sia legato al singolo ascolto di una partita di campionato, penso che i criteri di valutazione anche per un dirigente come è diventato lui siano più complessivi, e quindi, e poi come ripeto, non sono TV generaliste. In una TV generalista chiaramente fare una partita, che ne so, una partita come Juve Barcellona, farla alle 20:45 oppure farla alle 15, ovviamente fa una certa differenza. Una finale di Coppa Italia, giocarla alle 20:45 o alle 15, sicuramente i dirigenti Rai sono più contenti se giocare alle 20:45, perché ti cambia l'introito pubblicitario. Ma le TV satellitari e digitali, cioè TV a pagamento, hanno i loro abbonati, quindi è un grande, sinceramente non è proprio non è un grande problema, zero, Paolo. Anzi, io posso, se posso esprimere la mia opinione, non sono neanche poi così contrario ad iniziare il campionato 12-13, perché quella partita con la Spagna è di un'importanza fondamentale per l'intero calcio italiano, e poi cominciare una settimana prima, una settimana dopo, non mi cambia niente, e poi per finire siamo portatori di interessi zero, dato che almeno per quanto riguarda sono dipendente, quindi ho 30 giorni di ferie. Ma certo, me guardate, ne posso fare quando ne ho voglia. Dica, cioè, Paolo, no, ma non voglio sentire la voce contraria. Paolo. Allora ci lascia qui a suonarcela, a cantarcela da soli e poi ci molla Paolo. Richiamiamolo dopo la borsa. Tutti convocati. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Tutti convocati. Pierluigi Pardo, adesso ti lascio andare a prendere l'aereo, ma l'ascoltatore di prima, Paolo non risponde più, non risponde più l'ascoltatore di prima, evidentemente ce la siamo suonata e cantata. Comunque lo aspettiamo. Lo aspettiamo. Se... Ma poi ribadisco, io sono d'accordo con Ferì, certo che alla fine l'obiettivo più importante è quello della nazionale. Ora poi se in Spagna comincia alle 20, comincia alle 13 mi sembra un po' assurdo. Alle televisioni secondo me la cosa non cambia la vita, sicuramente non è una grande idea dal punto di vista del settore. Il mercato è comunque aperto e lo rimarrà fino alla fine di agosto. E soprattutto è un grosso problema per le società che hanno già contratti importanti. Sì, però ti ripeto, Pier, questo adesso avremo un ospite, cioè Paolo Marino, di cui discuteremo anche questo tema, però anche Real Madrid e Barcellona, ti ripeto, in Spagna non si è ancora deciso quando iniziare il campionato, ma i contratti sono già inchiostrati, quindi lo stesso discorso. Se mi parlate del clima, vabbè, l'estate fa caldo, d'inverno fa freddo, non credo che una settimana di differenza faccia grande provochi un grande sconvolgimento, sono peggio gli infrasettimanali gennaio. Nella fortuna di avere una partita così importante a inizio stagione, cosa che noi soffriamo abbastanza, cioè diciamo la consolazione che la nostra rivale è una rivale che ha squadre altrettanto forti, forse anche di più, ha lo stesso tipo di clima e gli stessi problemi. Il 5 agosto. Bravo, e gli stessi problemi, stessi problemi che comunque dovremmo affrontare noi. C'è chi scrive invece che se a San Siro giocano le mogli dei calciatori nude, viene da Bari. Sì, ma io sono Francesco da Roma, buongiorno. Cominciano a fare pressione. Sì. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, parto da una considerazione che è la seguente. Ieri abbiamo assistito alla partita Spagna-Italia. Under 21. Dal punto di vista tecnico ci sovrastano in ogni ruolo e in ogni zona del campo. Possiamo controbattere soltanto con la forza fisica e l'agonismo. Adesso i maestri di questa arte che è il calcio ci dicono che i giocatori devono mettere dei minuti nelle gambe. Adesso io mi chiedo e vi chiedo perché ogni volta devono entrare i burocrati e dire la Lega non si può, non si deve, è difficile, ci sono interessi conflitti. L'unico interesse che muove poi tutto l'interesse, l'ascolto e la passione per il calcio è il successo, e per arrivare al successo dobbiamo anticipare e fare un sacrificio, ma perché non farlo? Possiamo combattere la Spagna solo sul piano, va bene, Francesco, lei ha ragione, io posso aggiungere che ci sono i tifosi che si programmano le vacanze andando a vedere i ritiri, possiamo aggiungere un sacco di cose, dico che una settimana di differenza non sposterà i valori tra Italia e Spagna, dove comunque andrà Pierluigi. Sì, ma io comunque in linea di principio sono anche d'accordo, tra l'altro appunto diceva Federico giustamente che nessuno vuole un mondiale senza Italia, no. Questo è ovvio, la priorità è assoluta, è totale, eccetera, quindi io se dovessi decidere non avrei grandissimi problemi. Ripeto, credo che Spagna comincerà il 20 e credo che il 20 sia la data più logica, però insomma, si gioca a 13 mi troverete in postazione con letto, sudato, ma felice, perché sì, poi tanto... E a me troverete qua... e troverete la parte delle televisioni, che come detto non è che vivono della finale di Coppa Italia o della finale in chiaro della Champions League, ma vivono di una routine di 38 giornate di campionato, quindi non gli cambia assolutamente niente. Semplicemente, se devono interpretare il tipo di logica, è chiaro che si cerca di giocare quando c'è richiesta. Sicuramente c'è più richiesta più avanti che a metà agosto, e ribadisco, ma questo non, guarda, su questo non ho un'idea precisa, secondo me, non ho un'idea precisa, Natale, perché sotto, sì, Natale secondo me ci sono invece le opportunità, come succede in Inghilterra con un modello virtuoso di, chiaro, portare, no su quello sono d'accordo anch'io, come succede in Inghilterra, come succede negli Stati Uniti, dove sai benissimo che le partite più importanti di ogni sport vengono programmate il giorno di Natale, esatto, il giorno di Natale, perché la logica è quella, si fa odias. Ciao Pierluigi, ciao, ci sentiamo domani. Pierpaolo Marino, buongiorno. Ciao direttore. Ciao caro, buongiorno. Allora, entra subito dritto sull'argomento. Campionato il 12 e il 13 di agosto, questa è l'ipotesi paventata da Tavecchio, che peraltro, come dicevo prima, il 18 potrebbe commissariare la Lega Calcio, il 18 di aprile. Sono anni che non riescono a risolvere questo problema, adesso ha dato la deadline, manco fosse Berlusconi con i cinesi, quindi potrebbe trovarsi a decidere tra sé e sé se far iniziare il campionato il 12 e il 13. Si guarda allo specchio la mattina mentre si fa la barba e dice: caro Carlo, quando iniziamo? Pa. È proprio così. Tu cosa ne pensi sul cominciare il 12 e 13? Ma sai, io ho avuto tanti allenatori, quindi tra l'altro Ventura l'ho avuto in due squadre diverse, a Udine e a Napoli, e gli allenatori chiedono sempre il massimo secondo le proprie esigenze, no? Perché è normale, però dopo bisogna trovare un equilibrio, insomma. A me comunque, ma da dirigente cosa diresti? Cioè, ti darebbe fastidio iniziare in quelle date? Penso che non sia una cosa, soprattutto, che salvaguarda gli interessi di tutte le squadre, insomma, perché chiaramente magari può fare anche piacere a qualche squadra che nelle competizioni europee un anticipo nell'inizio, però tante altre squadre cosa fanno per tanto tempo, a dover andare tanto tempo prima in ritiro? Cioè, io sinceramente non vedo grandissime difficoltà a poter cominciare anche dopo, che poi sarebbe una settimana dopo, Pierpaolo, una settimana dopo, quindi sono quattro allenamenti dopo, cinque, insomma, non stiamo parlando di, in questo caso concordo con te, poi la mia esperienza dice che ogni partita poi ha storia a sé, poi fare tutto quello che ritieni al meglio, però poi la partita nasce e finisce lì, e le dietrologie di se hai iniziato prima o dopo, poi magari vinci la partita, è andata bene se hai cominciato dopo, se la perdi hai sbagliato anche a cominciare prima il campionato, cioè, quindi io lascerei fare agli eventi, non andrei ad alterare la regolarità la tradizione. Lasciamo comunque fare a Tavecchio, che sarà presidente della Lega, della Federcalcio, la spinta emotiva del selezionatore, chiaramente. A proposito di selezionatore, ci sono diverse cose di cui voglio parlare con te. Voglio farti sentire cosa ha detto Ventura a proposito di Sacchi, il quale ha scritto che questa nazionale mica gioca tanto bene. Non si esprime su alti livelli. Ventura risponde: ho avuto due sensazioni, una di un po' di delusione, se devo essere sincero, e anche un po' di curiosità. La delusione è che ho sempre considerato Arrigo un punto di riferimento per il calcio, sarebbe bello che rimanesse quel punto di riferimento che è stato, quindi un po' di delusione c'è stata. Un po' di delusione c'è stata nel sentire quelle parole di Arrigo Sacchi, e lo stesso Ventura ha poi detto, Pierpaolo, mi sono andato per curiosità a riguardare un paio di partite dei mondiali con l'Olanda e con il Messico, non è che la nazionale di Sacchi fosse qualcosa di indimenticabile, io non mi ricordo una sola partita giocata in maniera spettacolare dalla nazionale di Arrigo Sacchi. Milan è un'altra storia. Ci fermiamo un attimo per il traffico e poi sentiamo Pierpaolo Marino. Tutti convocati. Tutti convocati. Faircam Distribution. Spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. Convocati. Pierpaolo Marino è collegato con noi. Dunque, questa polemica a distanza Ventura Sacchi, che ne pensi? Ma vedi, il problema è questo, che mi mortifica questa polemica, perché si tratta di due amici e naturalmente di due ottimi allenatori, anche se uno ha finito la propria attività sul campo, diciamo. Sì. Il problema sta sempre nel fatto che quando da si diventa opinionisti, si finisce per guardare le cose in una maniera critica, ma questo non deve toccare chi è oggetto della critica, perché secondo me, ed è stata sempre una cosa che io ho adottato e mi ha riguardato, che è quella che chi opera e diventa oggetto di una critica o di un'analisi del proprio lavoro da parte della critica, sì, deve saper essere una carta assorbente, secondo me. Cioè, sì, no, questo è vero. Nel senso che rispondere se la critica è altolocata o non rispondere se la critica non è altolocata, in questo caso naturalmente quella di Sacchi è una critica da fonte qualificativa. Sì, che poi a Sacchi non piace quasi nessuno, diciamoci la sì, verità. Sì, anche perché è un perfezionista. Ed è, non piace quasi nessuno, il bel calcio quando, che predica lui lo fanno in pochi. Sì, poi è un calcio anche ideale. Esatto, però esatto. Io in Ventura non avrei risposto, onestamente, perché comunque il giudizio di Sacchi va rispettato in quanto in questo momento di professione opinionista, non di professione allenatore, quindi non va visto se ha giocato bene lui. Penso non ha che giocato tu abbia bene. Ragione. Penso, cioè, penso che tu abbia ragione. Perché se lo pagano come opinionista, e credo che lo paghino e anche bene, sì, io credo che va giudicato ma come sì, opinionista. Non un'alzata di spalle e via. Un'alzata di spalle e via. Oppure una telefonata a Sacchi e dire non sono d'accordo, però. Ma ne ha, ma sì, ma ne però cercherò forse di analizzare meglio sì, tutti i miei aspetti sì, per migliorare. Non è che c'è bisogno di chiamare. Un'alzata di spalle e via, sono d'accordo con te. E poi ripeto, io non mi ricordo una sola partita dell'Italia di Sacchi indimenticabile, anche se è vero che è uno dei pochi commissari tecnici della storia, e questo rimane scritto nei libri sacri, ad averci portato a una finale mondiale e poi perso. Sì, ma questo non vuol dire che lui da opinionista non possa dire questo mi piace e quell'altro non mi piace. Anzi, perché i critici cinematografici non hanno mai fatto i registi. Ma cioè, no, ma questo è evidente. Anzi, se un opinionista lecca di qua e di là, non è più un opinionista, è un lecchino. Voglio parlare con te. Anzi, l'opinionista gode della reazione del criticato. Bravo. Senti, voglio parlare con te di un altro argomento che mi interessa molto, utilizzando la tua esperienza di dirigente, però promettimi di dirmi la verità. Promettimelo prima. Dimmi. Te lo prometto. Promessa mano sul cuore. Allora, assolutamente. Allora, la voce di Ventura sul caso Barzagli. Sono rimasto molto stupito, se devo essere sincero, perché non c'era assolutamente niente di concordato, perché secondo me in nazionale non si può concordare. Se un giocatore ha dei problemi, che prima di venire è evidente che viene presa in esame la non convocazione, quindi quando è venuto perché c'era da giocare una partita importante come quella dell'Albania. Dopo la partita dell'Albania è semplicemente chiesto, esponendomi dei problemi suoi e dicendo se mi poteva concedere questi 3 giorni. Allora, secondo me non è un caso quello Barzagli, però insomma tu sei stato direttore di squadre piene di nazionali a partire dal Napoli anche di Maradona. Esatto, sì. Da Maradona andando in giù. Allora, come io ieri facevo il retropensiero delle ammonizioni telecomandate di Higuain squalificato, di Dani Alves squalificato, di chi viene esentato da una partita o dall'altra, quali sono le raccomandazioni del club al giocatore? Quando va in nazionale? Il club fa sempre la raccomandazione di ricordarsi della partita dopo. Di ricordarsi chi gli paga lo stipendio. Esatto, di ricordarsi della propria partita dopo. Però dopo i giocatori la interpretano sempre a loro modo. Io devo dire che gli italiani sono più inclini a guardare gli interessi del club, mentre gli stranieri o soprattutto i sudamericani privilegiano le nazionali, e quindi c'è poco da discutere con loro. Magari fin quando rimangono nel campo geografico di tuo controllo, cioè nell'ambito della tua città di appartenenza della squadra, ti danno anche delle assicurazioni, ma poi come arrivano in Sud America non sono più gestibili. Beh, però i guai è tornato a casa, ammonizione, tac. Torno a Torino per preparare la partita con il Napoli. Ma Pierpaolo, io sono per la massima trasparenza, no? Come faceva, mi raccontava un giorno sì, Andrea Zorzi. La verità, sai qual è? Che il conflitto fra io pago il giocatore e tu diventi proprietario, la nazionale me lo dai in prestito per il campionato, mi sembra che è un rapporto difficile da tenere in piedi. È un rapporto molto difficile da tenere in piedi, per questo io punterei alla massima. Ci sono giocatori che si infortunano, la storia è lunga, insomma. La storia è lunghissima, però io sarei per la massima trasparenza. Barzagli, 35 anni, ha tutto il diritto di uscire a cena con la moglie, di tornare a casa, di chiedere un permesso. Magari anche a Ventura faceva piacere, perché così provava qualcosa di nuovo. Ma infatti è così. È allora, chiaro, per, è allora che, la differenza è tra Barzagli gli avrà detto tutto a Ventura. Ma sì, ma di sicuro avrà detto tutto a Ventura e ai compagni. Ma io avrei mandato a casa pure Buffon. Se ti devo dire la verità. Mando a casa pure Buffon, mando a casa tutti i giocatori di squadre che devono fare le coppe o che hanno impegni importanti in campionato. Per un'amichevole, fai giocare, anzi, è l'occasione per provare giocatori giovani che abbiamo, che non vediamo l'ora di vedere, che giocano in club per i quali invece è interessante, è importante avere il giocatore che debutti in nazionale, perché cresce il valore. E quindi hai pienamente ragione, assolutamente ragioni come la pensa un addetto ai lavori o un ex addetto ai lavori momentaneamente. Mi candido come direttore sportivo di una squadra sarda, perché io voglio andare in Sardegna a prendere il sole. No, rispondi no, quando fai il direttore sportivo non hai tempo di prendere il sole, ti assicuro. No, io vado a fare il direttore sportivo dell'Ibiza. Va bene, allora sì. Senti, ma è vero che ti ha contattato la Lazio? Ma guarda, su questo argomento non mi far parlare, perché va se bene. Dico... No, me l'ha scritto un ascoltatore, Me l'ha scritto un ascoltatore. Meglio non esaminarle le mie questioni personali, che poi non riguardano molto i vostri ascoltatori. Allora, un'ultima cosa. Sarri panchina d'oro. Giusta, secondo me. Giusta. Giusta perché, secondo me, la panchina d'oro deve premiare non chi vince, perché chi vince è già premiato dalla vittoria, ma chi è propositivo nelle innovazioni e nel portare squadre pronosticate diciamo a posti e a piazzamenti inferiori a piazzamenti superiori. E io credo che il fatto che sia stato premiato Sarri prende il suo grande lavoro dell'anno scorso e di quest'anno sulla spettacolarità, sulla linearità, sulla tattica ed anche il piazzamento al secondo posto dell'anno scorso, che insomma è un piazzamento che è importante, perché ormai da qualche anno il secondo posto vale quasi uno scudetto, perché tanto il primo posto è già assegnato. Il primo posto è già assegnato ed è per questo che per è chiaro che non, no, per non i valori verrà, assolutamente non, adesso non mi aprire no, perché sono qua in quelle dietrologie che non mi appartengono. No, per favore non mi aprire questo fronte, perché sennò non me la cavo più. Abbiamo capito tutto. Giustamente lo vince la Juventus. Lo vince la Juventus e poi però quell'altro campionato l'ha vinto il Napoli. Ma è chiaro. È come dare sempre il pallone d'oro a Messi o a Cristiano Ronaldo, esatto, no? È la stessa esatto. cosa, mentre in questo caso è condivisibile la scelta di Sarri, che ci ha fatto vedere anche qualcosa di nuovo. Grazie Pierpaolo. Sì, ok, io chiudo lì. Ti abbraccio forte. Ciao, caro. Gianfranco da Genova, prima di fermarci un attimo. Pronto, buongiorno. Complimenti per la grazie. Trasmissione. Naturalmente mi permetto di darti del tu, perché stiamo insieme, almeno io sto insieme a voi tutti i giorni. Piccola cosa, viene a fare il direttore sportivo a Genova, qua c'è già gente che fa il bagno a nervi. Allora, chiamavo per Donnarumma. Porca miseria, vengo subito. Chiamavo per Donnarumma. La cosa che mi impressiona di più, avendo giocato in porta, e visto che ho giocato in porta, li osservo tutti molto bene perché ho passione per il ruolo. La cosa che mi impressiona di più è che è un ragazzo che non suda, non è freddo, è proprio uno che non suda quando è in campo, non tradisce è un emozione. Serpente. No, ma è questa anche a me, anche se non ho giocato in porta, Gianfranco. Anche a me che impressiona di più è la personalità, la diciamo in questa, traduciamo il tutto in questa parola, la personalità di Donnarumma. È questo forse il primo segno di un campionissimo. Ci fermiamo per il GR, torniamo con Marino Bartoletti. Siamo tutti convocati. Convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché non lo si può vedere. Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché mutano le case, mutano le cose, mutano le mele d'arenetta deliziose, muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog, ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Io ringrazio in modo particolare oggi Marino Bartoletti che insomma ha ritagliato uno spazio per l'appuntamento musical sportivo con Radio 24 e con tutti i convocati. Ciao Marino. Come potrei mai dirti e dirvi di no? Ma so che tutti i lavori che fai, attore, scrittore, giornalista. Attore è una parola grossa, però a fine settimana al Teatro delle Palme di Napoli si chiude la mia tournée, penso un po' la mia tournée. Lo spettacolo lo scoprirete tutti venendo, le ultime tre. A Milano? A Milano se ne parla la prossima stagione. Mi fai aspettare fino alla prossima stagione, Marì. Che amico sei? Cioè, io sono uomini di teatro, lo so, fate un po' i fighi, sì, lo so, però io sai che non posso muovermi da questo microfono e a Milano se ne parla la prossima stagione, vabbè. Vediamo se. E poi ho fatto anche un altro di spettacolo dove racconto la storia d'Italia attraverso la storia della bicicletta e tutti i grandi poeti che hanno cantato la bicicletta. Io te lo consiglierei. Ma ho capito, ma insomma dobbiamo metterci d'accordo, Marino, in un modo o nell'altro. Di che parliamo? Che ascoltiamo piuttosto? Ascoltiamo i Clash. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Allora, should I stay or should I go? Dalla nazionale, Marino. Cominciamo dal punk, Cominciamo dal punk, certo. So chi deve restare, chi se ne deve andare, di che parliamo, della disputa? Della disputa, secondo me esagerata, Barzagli che... Ma devo dire che poteva essere gestita, come dire, con un po' più di discrezione questa vicenda, sinceramente. Certo. Io credo che forse Barzagli avesse diritto, anche perché è un galantuomo, e poi è un campione del mondo, Barzagli, a questo piccolo congedo, questa piccola licenza, come forse secondo me avrebbero dovuto essere licenziati o congedati tutti coloro che giocano nel Napoli, nella Juventus in questa occasione, ma sono idee mie naturalmente. No, sono anche mie perché le ho dette prima, quindi mi hai copiato. No, non ti ho copiato perché stavo pensando a un libro che uscirà a giugno. guarda un po', tanto per cambiare. Noi che abbiamo il problema del tempo libero. Credo che potesse essere gestita meglio, sinceramente. Questa cosa è un amichevole, come dicevate voi che sapevate parlare di lusso questa sera, però anche un'occasione di grande e fertile sperimentazione. Allora sperimentiamo fino in fondo. Preghiamo per la salute di Bonucci, metti che qualcosa stasera non gli porti fortuna e poi ci va Ventura a spiegargli a Allegri che le cose non sono andate bene. Le occasioni vanno gestite con intelligenza. Io mi ricordo una volta, era direi impegnata per cose importanti, e l'allora allenatore della nazionale fece esordire Nocera e Miceli del Foggia, perché gli mancava giusto appunto il centravanti e il terzino sinistro. Insomma, sono occasioni che oltretutto in un momento storico come questo vanno utilizzate e gestite. Questa è una nazionale che può cambiare pelle, ma certo, se la cambia veramente pelle, certo, allora facciamogliela cambiare veramente, lasciamo, certo, lasciamo da parte le chiocciole, i padrini, ma diamo, certo, diamo, ma, facciamo, ma soprattutto abbiamo, ragazzi, abbiamo, una difesa, abbiamo una difesa futura già pronta praticamente, che per due terzi giocherà stasera, si poteva mandare a casa anche Bonucci, per quanto riguarda Higuain e altri c'è stata la benedetta ammonizione che gli ha fatti tornare prima, però io la gestirei con maggiore discrezione, anche con maggiore chiarezza, tutta una vicenda di questo tipo. Cioè è normale che questi tornino a casa e che giochino quelli dell'Atalanta, della Sampdoria, che non possono che essere contente di vedere valorizzare i loro giocatori. Ampassan, Moscow Calling, sempre per fare Moscow Calling, non sarà London Calling, insomma. Senti, Ampassan, campionato 13 agosto che sta facendo discutere e chiacchierare, tu come lo vedresti? Guarda, mi verrebbe a dire che proprio perché l'ha detto Tavecchio la cosa mi insospettisce, mi rende freddo. E mi sembra che il 13 agosto sia sinceramente un pochino forzato, per quelle che sono le nostre abitudini, per carità, le abitudini vanno amalgamate, piegate, soprattutto quelli che sono gli interessi della nazionale, però si può trovare un compromesso sinceramente un pochino più accettabile dall'una parte e dall'altra. Poi qualcuno può dire, vabbè, tanto questi giocano lo stesso perché vanno in tournée in Arabia a guadagnare i soldi, a fare quant'altro, anche se in realtà sono tournée, devo immaginare, sicuramente, come dire, organizzate prima di quanto non si sia svegliato Tavecchio, perché Tavecchio questa cosa non l'ha detta prima delle elezioni per vedere che effetto faceva sulla Lega? Perché prima delle elezioni non aveva ancora deciso che il 18 commissaria alla Lega e quindi diventa anche presidente di Lega, come ho detto prima, decide lui guardandosi allo specchio. Sai che quando Matteo Arese era presidente della Lega diceva sempre, giustamente dal suo punto di vista, eh no, perché i giocatori sono i miei. Poi diventò presidente della federazione e disse, i giocatori sono i miei, cioè dovunque lui era, i giocatori erano i suoi. Un po' come Conte, mi ricorda vagamente Conte. Vabbè, lasciamo stare, ti faccio sentire un'altra cosa dedicata a un ascoltatore e poi ti spiego perché. Sarà la miliardesima volta che ascolto questa canzone dei Pearl Jam, Given to Fly, e come possono testimoniare loro signori che mi stanno guardando dal vetro, ho la pelle d'oca tutte le volte. Un ascoltatore mi ha scritto: vuoi arrivare, vuoi che ti porti al concerto di Firenze? No, io voglio arrivare all'ascoltatore che mi ha scritto: però quando c'è Marino Bartoletti non ti azzardi a mettere i Pearl Jam? Uomo di poca fede. Uomo di pochissima fede. E questo Given, che ti racconti la biografia di Pearl Jam, Vuoi che ti dica che secondo me sono nati a Seattle, vuoi che non accettiamo provocazioni sulla musica, tu vuoi dire, Non accettiamo provocazioni, avete capito voi ascoltatori di poca fede, altro che se li mandi per Gem con il mio amico Marino. No, però voglio arrivare a Given to Fly. Green River all'inizio, beh. Mamma mia, che pelle d'oca, cioè, che brividoni. Se fai il bravo ti porto, dai veramente, Firenze, dai, vediamo. Devi essere molto carino con me, però. Faccio tutto quello che vuoi, lo dichiaro pubblicamente. No, io voglio arrivare a Given to Fly per la Ferrari e per Rossi, che domenica ci hanno fatto vivere una giornata unforgettable, diciamo così, all'inglese. Beh, devo dire che per la sfortuna della Ferrari, che pure ci ha dato una gioia, credo che avevamo dimenticato, poi la giornata si è conclusa con la MotoGP dal Qatar, sinceramente. Il paragone è stato abbastanza crudele per lo spettacolo, Dopodiché la gioia che ci dà una rossa quando taglia per prima il traguardo, ci picchia, insomma, è una gioia. indimenticabile. Tutti coi piedi per terra, naturalmente, però insomma, chi ben comincia, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sembra che vabbè, le circostanze, le strategie, il cambio gomme abbiano in qualche modo favorito la Ferrari, ed era ora, perché ultimamente di cappella i box ne avevano fatti parecchi. Però se non arrivava prima, arrivava seconda. Sì, e vuol dire che comunque, beh, cambiava qualcosa. Cioè, come direbbe il nostro amico Guido, la Ferrari c'è. La Ferrari c'è, esattamente. C'è anche quel ragazzo di 39 anni di Puglia. C'è anche lui, e c'è anche un altro prodotto rosso della tua terra, la Ducati. A Ducati. Allora, adesso passiamo da Given to Fly e dai Per Gem agli ABBA, perché così è, se vi pare. Brividi non ce li ho, ma l'SOS per il ciclismo l'ha lanciato Mario Cipollini nei giorni scorsi dei nostri microfoni. Abbiamo chiamato anche poi un personaggio che è stato importantissimo per il mondo della tua amata bicicletta, e cioè Giorgio Squinzi. E insomma, è una settimana che muoio dalla voglia di sentire la tua su questo SOS che io, per la verità, ho deciso di lanciare. Anzi, noi tutti quanti di squadra abbiamo deciso di lanciare per riportare i nostri corridori a casa. Hai fatto bene, guarda, intanto mi piace molto questo accostamento, credo non casuale, perché abbiamo rammentato i tre grandi colori dello sport italiano: l'azzurro della nazionale e delle nazionali, sì, il rosso della nazionale rossa a quattro e due ruote, perché ricordiamo che è rossa anche la Ducati, come è stata rossa la Gilera, è stata rossa la MV, e il rosa a questo punto, perché ricordiamo che fra poco più di un mese parte il Giro d'Italia. Certo, io guarda, prima ero a tavola con un ingegnere che in qualche modo ha partecipato all'applicazione del carbonio alla bici, quindi parliamo di ormai quasi 25 anni fa, ed è stato Squinzi il primo che, grazie a Colnago, ha vinto una Milano Coupé con quelle bici al carbonio che si temeva che non arrivassero alla fine perché le giunture sembrava non tenessero. Erano anni in cui le squadre più importanti erano italiane, e la Mapei, ricorderai che cos'è stato, perché era praticamente quasi la nazionale europea, visto che non c'è una nazionale europea, però erano tutti lì, sai, quando ti arrivano a Roubaix in tre in parata, che erano Taffi, Bortolami e Musso che vince, sì, come la Ferrari a Daytona qualche anno prima. Beh, insomma, erano anni veramente belli, avevamo in pugno tutta la situazione. Certo, la globalizzazione, certo, le grandi potenze che si affacciano nel mondo dello sport, sì, quello che vuoi, però non c'è grande ottimismo in giro, almeno dalle parole di Squinzi. Devo dire sinceramente, sì, è vero che in questo momento non abbiamo forse il potenziale vincitore della grande classica, e Dio sa quanto ci ha immalinconito a Sanremo. Spero che abbiamo ancora un possibile vincitore, uno e mezzo di grandi giri, e sai perfettamente di chi parlo. Certo. Però è anche vero che la grande tradizione, la grande cultura, il grande humus della bicicletta mondiale è qui, cioè i più grandi tecnici sono ancora qui, i più grandi direttori sportivi sono ancora, sì, qui. Sono ancora qui, ma se ne stanno andando anche loro, che Saronni ha preso altre strade. Ad esempio, i grandi costruttori di biciclette va bene, però vogliamo rivedere una grande squadra italiana in Italia, ed è per questo che già anticipo agli ascoltatori che io ho una mezza intenzione di chiamare il signor Zanetti, il signor Segafredo, perché si dice che insomma qualche idea ce l'abbia da questo punto di vista. Marino, non mancano le giovani leve, anche nel ciclismo, come nel calcio ci sono i Gagliardini, di Tappacosta e quant'altro. Bisogna dare loro qualche opportunità, e l'idea di una nazionale a due ruote, beh, sinceramente credo che non sia poi così peregrina. In fondo poi ci sono dei paesi che hanno le loro nazionali, l'Astana e... Bravissimo, esatto. Perché la Sky non è forse una nazionale inglese? La Sky assomiglia molto a una nazionale inglese. Una nazionale inglese con... Per non parlare del Bahrain e di tante altre più o meno emergenti. È così. Marino, grazie. Non mi hai messo l'Equipe 84, sai, per Gem, tutta musica contemporanea. Vabbè. No, ma c'è un ascoltatore che chiede i Ramones. Prossima volta ti metti i Ramones. Ciao Marino. Allora, e poi ti saluto perché hai da fare. Quando l'altro giorno a mio nipotino ho chiesto cosa voleva dello zecchino d'oro, non so, pop, mi ha detto: nonno, mettimi i Clash. Dio, quanto me li tiro su bene. Ciao Carlo, ciao Marino, un abbraccio forte. Ciao. Attilio Caglia, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti. C'è il mio fido Edoardo Lavezzari che lavora in redazione. Stavamo parlando prima di basket, anche lui è un grande appassionato e mi ha detto: beh, quando prendi gli allenatori qualche partita la vinci. Attilio Caglia 5 su 5 a Varese, dovevo arrivare? Bah, insomma, a vincere ancora una partita che ci dia la matematica salvezza, questo direi che è l'obiettivo. Abbiamo fatto, è un periodo che stiamo facendo veramente bene, siamo riusciti a diventare una squadra, perché mettersi insieme così diversi modi di pensare, diversi modi di interpretare il basket, con pazienza, con sacrificio, facendo a volte anche modi un po' decisi, confrontandoci, però poi condividendo la via da percorrere e trovando la via condividendola, siamo riusciti un po' tutti a fare chi un passo indietro, chi un passo verso il compagno, e i risultati sono che queste 5 vittorie consecutive e 6 su 9 nel girone di ritorno, che ci hanno permesso di togliersi dall'ultimo posto della classifica a una posizione adesso non ancora definitiva, però insomma una buona posizione. Per la gioia di Billy Costacurt, che nonostante il soprannome è tifosissimo di Varese, come tu ben sai. Va bene, allora vincene ancora una, che significa matematica salvezza, però se allunghi le mani tocchi playoff. Ma insomma, diciamo che sono tu come Cantù, come Cantù, sì, che ha preso un altro allenatore che si chiama Carlo Calcati. Abbiamo fatto veramente bene, abbiamo speso tante energie fisiche, nervose soprattutto, perché sai, quando sei per tanti mesi all'ultimo o al penultimo posto della classifica, è chiaro che hai un dispendio di energie nervose, che devi cercare di star tranquillo, devi cercare di non perdere la testa, perché poi dopo alla fine bisogna stare lì, diventa una guerra di nervi, il primo che li perde compromette la stagione, quindi per star lì tutti giorni a cercare di tenere tranquilli tutti, cercare di fargli vedere che si può recuperare, così è dispendioso. Questo non vuol dire che le restanti partite non dobbiamo prenderci altre soddisfazioni, però insomma dobbiamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, siccome il gruppo sta lavorando bene, ha una buona empatia fra di loro, cercare di renderlo ancora migliore di quanto non lo sia fino adesso. Però sebbene a distanza, questo derby lombardo antico tra Varese e Cantù, magari per battaglia a distanza per l'ultimo posto dei playoff o chi stimola, lo sa, stimola molto, stimola perché poi dopo Cantù è sempre appunto una rivale storica per noi, quindi sarebbe una grande ciliegiona su questa torta che ci siamo preparati. E poi ecco anche il confronto Carlo, che è un grandissimo, sta facendo bene a Cantù. Poi per i nostri tifosi all'andata era stata Cantù a venire a vincere a Varese, e noi dobbiamo provare di restituire come loro fecero con merito, cercare di farlo altrettanto noi. Potrebbe valere tantissimo quel derby. Senti, ieri leggevo un'intervista a Messina su Corriere della Sera del collega Roberto De Ponti, e Messina diceva: io a fare il CT della nazionale a tempo pieno non ce la faccio, perché ho da fare qui in America, mi serve un commissario tecnico che guidi i lavori durante la stagione e poi io posso fare il commissario tecnico estivo. A me l'idea non scandalizza per nulla, secondo me è quello che bisognerebbe fare. Tu cosa ne pensi? Sì, anch'io sono convinto che poi dopo sarebbe l'assistente che può avere durante la stagione, poi parliamo di durante la stagione due periodi, uno a novembre e uno a febbraio, di una decina di giorni, quindi non è che stiamo parlando di tanto. Poi quei 10 giorni, se sei in grande sintonia con l'allenatore e fai un lavoro estivo con lui, sai quello che devi portare avanti, quindi assolutamente è una cosa condivisibile e auspicabile. Fattibile, assolutamente. Sì, a proposito di nazionale, c'è Gentile che preoccupa, Agheti infortunato, Gentile che preoccupa perché non sta vivendo un bel periodo, questo lo sanno tutti. No, peccato, perché è veramente un ragazzo di grande qualità, e io quando ho avuto anche l'opportunità di conoscerlo, frequentando negli anni scorsi, ero con Pianigiani con la Nazionale Sperimentale, mi ero aggregato il gruppo da là, anche un ragazzo che a conoscerlo ha un'impressione molto positiva, sicuramente diversa magari da chi non lo conosce, giudica da alcuni suoi magari modi di essere in campo, che a volte per timidezza o a volte per essere un po' uno chiuso trasmette, però è un ragazzo di grande fisicità, di grande qualità, è peccato che sta passando un momento, però è talmente giovane che, come si dice, dopo il brutto tempo viene il bello, bisogna star lì a mettersi a lavorare, aspettare e avere l'opportunità o la fortuna di capitare al posto giusto al momento giusto, certo, perché tante volte le carriere di alcuni giocatori possono svoltare proprio quando meno te l'aspetti, di essere senza saperlo, sei al posto giusto, al momento giusto, e svolti la tua carriera. Sì. Tu intanto hai trovato, aspetta un attimo, fammi chiedere Giorgio De Luca, fammi chiedere al mio amico Attilio Caia di un ragazzino che sta allenando adesso e che promette bene, si chiama Massimo Bulleri. Bullo è un professionista esemplare, io l'avevo avuto a Milano nella stagione di Armani 2006-2008, l'ho ritrovato qui 9 anni più tardi, però è chiaro che a livello fisico ha un po' di differenza, ma soprattutto sulla resistenza, cioè quello che fa prima, non è mai stato un atleta, però adesso magari fa un po' più fatica, prima giocava 15-20 minuti consecutivi, adesso magari ne fa 5, però sono sempre 5 di grande qualità, 5 di testa, 5 di squadra, un esempio per tutti i compagni, perché è come se fosse il suo primo giorno di allenamento, ogni giorno li fa per quello che può fare, quindi un bel esempio, poi adesso ci sta dando anche un aiuto proprio nel concreto. Quello che diceva prima Abbiati, smetti di giocare quando ti pesa andarti ad allenare, evidentemente per il Bullo non è arrivato ancora quel momento lì. Assolutamente, infatti, ci aiuta anche, perché poi sai, non è solo bello e positivo, ma nel concreto io avevo dovuto fare delle scelte, accorciare un po' le rotazioni, affidarmi a certi giocatori e per gli esterni che ho io, un altro ragazzo estremamente interessante che è di scuola serba, che si chiama Avramovic, però è un giocatore più portato a concludere che a costruire. Chiaro. Con i giocatori stranieri che ho io c'è più bisogno di un playmaker che costruisca, che faccia giocare gli altri, e Bullo in questo ha le sue caratteristiche, che sono perfette. Grazie Attilio, a presto, ti abbraccio. A presto, grazie ciao, a voi. Ciao Attilio Caia. Chiudiamo qui anche questa puntata. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.